Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. E benvenuti in questa nuova puntata di Fermata Provvisoria, rubrica all'interno di Fuscico Factory che intende dar voce e spazio agli artisti emergenti e alla loro musica. Oggi, ai microfoni di Fermata Provvisoria, avremo Diena, nome d'arte di Maddalena Diena. Diena è una cantautrice milanese giovanissima, classe 1998. Si avvicina alla chitarra già quando era molto piccola per via del padre cantautore. Ad 11 anni, Diena inizia a frequentare la scuola media musicale del proprio paese, dove si dedica allo studio della chitarra. Gli studi classici che l'hanno accompagnata successivamente nel periodo del liceo la spingono ad esprimere attraverso la musica le proprie emozioni. Nel 2018 inizia a registrare in casa alcune delle sue canzoni con attrezzature improvvisate. Nel gennaio 2019 incontra Andrea Gargioni, attuale produttore, con il quale inizia a selezionare alcuni dei brani tra gli oltre 40 che erano rimasti chiusi in cameretta fino ad allora. A cavallo tra il 2020 e il 2021 pubblica i suoi primi singoli: Tu almeno puoi restare, Io mi perdonerò, Credevo ci credessi e Il senso e la colpa. Ora ci ascoltiamo Credevo ci credessi di Diena e subito dopo torneremo con lei. Io non sento niente, dammi pure della deficiente, se aspetto sotto casa tua le ore prima che tu scenda. Tieni a mente che non amo galleggiare, che io tanto sono il mare, secondo te ho voglia di annegare. Io non vedo niente, ma tutto è già evidente. Camminerò distratta, quante volte ancora ti carezzerò la pelle prima di vedermi andare. Tieni stretto questo mare, le nostre lacrime e il mio sale. Ma i miei libri, la mia presunzione, la mia voglia di volere, ti dirò, io vado all'estero a studiare. Ho i miei libri, la mia presunzione, la mia voglia di scappare, ti dirò, io vado all'estero a studiare per un po'. Svincolarsi come la luce di un lampione che attraversa la provincia, nella nebbia io non ci riesco più a guidare. Scendi pure che sto male, ho frainteso tutti i gesti, sai, credevo ci credessi. Ma i miei libri, la mia presunzione, la mia voglia di volere, ti dirò, io vado all'estero a studiare. Ho i miei libri, la mia presunzione, la mia voglia di scappare, ti dirò, io vado all'estero a studiare per un di volere, ti dirò, io vado all'estero a studiare. Ho i miei libri, la mia presunzione, la mia voglia di scappare, ti dirò, io vado all'estero a studiare per un po', per un po'. Io non penso niente, però ti ho scritto sempre. Siamo qui ai microfoni di Fermata Provvisoria con Maddalena. Ciao Maddalena. Ciao. Iniziamo subito col farti qualche domanda riguardante appunto la tua carriera musicale o comunque il tuo percorso musicale. La passione per la musica ti accompagna un po' da sempre, quindi fin da bambina tu inizi a suonare, ad approcciarti alla chitarra. Come ti sei avvicinata a questo mondo musicale e perché hai scelto di dedicarti maggiormente alla chitarra? Allora, diciamo che in famiglia, nella mia famiglia, quella che è la sfera musicale è stata sempre molto importante. Mio papà scriveva canzoni quando era più giovane. Diciamo che sono sempre sempre cresciuta con canzoni che cantava lui nelle orecchie, cioè, da quando proprio avevo 5-6 anni, magari mi mettevo di fianco a lui con la chitarra, più grande di me. E mi sono approcciata alla chitarra proprio perché lui la suonava. Ricordo che era un quarto elementare che mi aveva insegnato, come tutti quelli che suonano la chitarra, la canzone del figa, la prima canzone che si impara a suonare. Poi il caso vuole che quando poi sono cresciuta, avevo 10 anni, sia io che i miei fratelli abbiamo frequentato una scuola media musicale e io avevo fatto richiesta per suonare pianoforte, però mi hanno preso per chitarra classica. E quindi così ne vuole che mi sia avvicinata di più alla chitarra, ho studiato per 3 anni, poi ho proseguito un po' chitarra classica e in contemporanea però a casa studiamo anche pianoforte. Però diciamo che la chitarra è stata con me sempre. Con il passare del tempo sicuramente ti sarai legata in particolar modo ad un certo tipo di musica o comunque determinati artisti che in qualche modo hanno condizionato un po' il tuo modo di scrivere, le tematiche magari affrontate nelle tue canzoni. Quindi volevo chiederti proprio quali sono le tue influenze musicali e gli artisti che hanno segnato il tuo percorso musicale. Diciamo che nella prima parte della mia vita, insomma, quando ero bambina, come ti ho detto, ero tanto influenzata comunque da mio papà, quindi nelle orecchie avevo sempre il cantato rap italiano, soprattutto De Gregori, poi vabbè ovviamente Dalla e tutti loro. Poi ho avuto una parentesi, diciamo, nella prima adolescenza, in cui ovviamente musica straniera, dai Green Day a tutta questa musica qui, e mi sono riavvicinata alla musica italiana negli ultimi anni, insomma, del liceo. Fai conto che era il 2015 circa, quindi era appena uscito Mainstream di Calcutta, andavano tantissimo I Cani, c'era Vasco Brondi, poi in un secondo momento qualche anno dopo Gazzelle e tutta quella che poi oggi è definita, insomma, come scena indipendente che sta prendendo sempre più piede ed è sempre più conosciuta oggi. E quindi diciamo un po' questo mondo qui mi ha avvicinato di nuovo alla musica italiana. Sicuramente come punto di riferimento femminile quegli anni lì non è che ci fosse tante cantautrici, e tra queste Maria Antonietta è stata un grande riferimento, cioè l'ho ascoltata tanto perché era l'unica donna, diciamo, che ascoltavo tra le band, i cantanti, i cantatori che c'erano. Ti ricordi un po' la tua prima canzone, quella che hai composto, comunque a che cosa ti sei ispirata? Allora, qui è un aneddoto che fa molto ridere, perché la prima canzone che ho scritto, che ti faccio per ridere, allora io quando andavo alle medie sono approcciata alla chitarra e io la prima canzone che ho scritto una canzone in prima media, in inglese, ma un inglese davvero indecente, sgrammaticato, e niente, cioè me la ricordo ancora e faceva super ridere per un ragazzino di prima media che aveva cambiato città e allora io tristissima gli avevo scritto una canzone. Però no, vabbè, a parte questo, la prima canzone in italiano, insomma, la prima canzone dell'era moderna, insomma, che io ho scritto, l'ho scritta in quarta superiore, ricordo, e si chiama Ilaria. Parla di una mia grande amica del liceo, tra l'altro la ragazza che mi aveva fatto conoscere per la prima volta certi gruppi, o Quacco Brondi, Le Luci, e fa questa musica qui, ma in generale parla molto della vita di una 17enne che potevo essere magari anch'io e il proprio modo di rapportarsi al mondo. E mi ricordo che era venuta così proprio naturalmente, cioè forse avevo bisogno di raccontare qualcosa in quel periodo e non è che ho cercato la canzone, non ho cercato, devo mettermi qui a scrivere una canzone, ma è venuta da sé, diciamo. Ora ci ascolteremo la canzone di Diena, Il senso e la colpa, e subito dopo torneremo con lei. Ti ricordi di me? Io sono una che perde tempo, spazio e possibilità, l'opportunità di prendere al volo quello che voglio ora che sono sicura di me, ma non dei miei piani, di tutti i domani che esistono. Io ne sceglierò uno. Devi morire prima di star bene, devo capire prima di volere. Lasciami almeno parlare, ti dico che il senso, la colpa non esiste, il senso profondo di resistere. Io voglio respirare, volermi bene, andare al mare. Il senso, la colpa non esiste, il senso profondo di resistere. Io voglio respirare, volermi bene, andare al mare. Ti ricordi di me? O forse sono solo io? Guardami ora camminare tra le ere, attraversare tutto ciò che per me era un mare. Ho avuto il coraggio di disegnare con il dito sopra un vetro le nostre promesse, eppure mi chiedo se devo morire prima di star bene, devo capire prima di volere. Lasciami almeno parlare, ti dico che il senso, la colpa non esiste, il senso profondo di resistere. Io voglio respirare, volermi bene, andare al mare. Il senso, la colpa non esiste, il senso profondo di resistere. Io voglio respirare, volermi bene, andare al mare. amici di un tempo, i loro amori che vanno così come il vento. I discorsi fuori moda, le feste, gli inviti, amici di un tempo, i loro amori che vanno così come il vento. Li narro, li sento. Il senso, la colpa non esiste. Il senso profondo di resistere. Io voglio respirare, volermi bene, andare al mare. Il senso, la colpa non esiste. Il senso profondo di resistere. Io voglio respirare, volermi bene, andare al mare. Parlare, ti dico che i discorsi fuori moda, le feste, gli inviti, gli amici di un tempo, i loro amori che vanno così come il vento. I discorsi fuori moda, le feste, gli inviti, gli amici di un tempo, i loro amori che vanno così come il vento. Li narro, li sento. Discorsi fuori moda, le feste, gli inviti, gli amici di un tempo, i loro amori che vanno così come il vento. I discorsi fuori moda, le feste, gli inviti, gli amici di un tempo, i loro amori che vanno così come il vento. Li narro, li sento. Questo era Il senso, la colpa di Diena. Diena, volevo chiederti, ormai da diversi anni scrivi canzoni, molte delle quali non sono mai uscite dalla tua cameretta, ma nel 2019 hai conosciuto Andrea Gargioni, tuo attuale produttore, con il quale hai selezionato alcuni di questi brani che hai registrato di recente, quindi periodo di pandemia. Tu sei riuscita comunque a registrare questi singoli, Tu almeno puoi restare, Il senso, la colpa, Credevo ci credessi e Io mi perdonerò. C'è una tra queste canzoni che senti particolarmente tua o che comunque ti ricorda un momento importante della tua vita? Allora, sicuramente in tutte le cose che scrivo c'è qualcosa di me, cioè soprattutto perché l'unica cosa che mi porta, diciamo, a scrivere sono degli scossoni emotivi che provo, insomma, provare un sentimento forte, particolarmente forte, che sia negativo come adesso positivo, è quello che mi fa cassare qualcosa dentro. E ti dico già che le mie canzoni sotto sotto parlano soprattutto di una cosa che è scegliere, quindi diciamo che il mostro della scelta, dell'avere la responsabilità di dover scegliere, per me è qualcosa che mi attanaglia dalla fine del liceo a quel passaggio, diciamo, tra l'adolescenza e il diventare adulta. Ed ecco, queste scelte sono mancate, non per forza sono successe. Infatti sono molto affezionata tra i quattro singoli che sono usciti a Credevo ci credessi, perché l'ho scritta esattamente quando dovevo scegliere se partire o no per 6 mesi per la Cina. Questo perché, tra parentesi, ho studiato cinese in triennale. È stato un periodo in cui ero davvero combattuta, calcolavo quanto avessi qui da lasciarmi dietro di me, quanto coraggio avessi io per fare questa scelta. Alla fine io non l'ho mai fatta e non sono mai andata in Cina a studiare, poi chi lo sa, magari un giorno ci andrò. E la canzone di Mi è venuta da dentro, ovviamente tocca anche una tematica relazionale di rapporti umani, e infatti un po' il Credevo ci credessi è il vedere certe aspettative che magari ti tengono legata in un determinato posto, in un determinato momento, anche se poi parlo di scelte anche nel senso della colpa, quindi forse Credevo ci credessi e poi sento la colpa. Il tuo percorso musicale ora possiamo dire che è più fecondo, creativo che mai. Hai progetti per il tuo futuro, sia riguardanti la musica oppure comunque i tuoi studi in comunicazione interculturale? Allora, parto dal fondo, quindi parto da una i miei piani, diciamo che i miei piani sono sempre incerti, nella vita cambio di idea ogni secondo. D'altra parte sono sagittario, quindi ho 3.000 idee in cantiere. Però per quanto riguarda i miei studi, mi sono laureata a dicembre in comunicazione interculturale in Bicocca a Milano. Sto portando avanti comunque lo studio del cinese e poi vabbè continuo a portare avanti, sono comunque appassionata di comunicazione e antropologia, e adesso ho iniziato una magistrale in comunicazione e media management, anche perché sono appassionata tra tutte le varie idee di produzione, di azione, di contenuti creativi, prodotti mediali. Però tornando alla musica invece, diciamo, tante cose in cantiere, ci sono tantissime canzoni che si sono accumulate in questi anni nella mia cameretta, come dicevamo prima, perché ovviamente ormai 5 anni che scrivo, quindi pian piano si riempiono i fogli, si riempiono le note vocali del telefono, quindi vorrei fare, diciamo, una piccola selezione, capire se far uscire qualche altro singolo, perché finora sono usciti solo singoli, o puntare più alla realizzazione di un album dove includere magari già i pezzi sono usciti. Quindi niente, tante cose in cantiere, spero di scegliere la strada giusta, fare le scelte insomma giuste, perché comunque per quanto riguarda la musica ho questa cosa dentro da tanto tempo e vederla uscire fuori in qualche modo mi fa sentire un po' più me. Cioè, quando è uscita la prima canzone era come se stessi scoppiando e finalmente magari le persone potessero in minima parte, anche solo per un minimo momento, vedere quello che faccio io, quello che sono io veramente. Grazie mille Maddalena, grazie per la tua disponibilità. Ora ci sentiamo l'ultimo singolo di Diena, Tu almeno puoi restare. Thank you. mi dicessi parto, io ci proverei a fermare il treno, ma sarebbe lo stesso. Se lo facessi io dentro il mio cassetto, c'è una busta e nella busta le parole e un paio di fotografie, tutto quello che non si può rovinare. Ma dimmi, li hai anche tu, quei momenti che piaci, che ridi, che respiri e non respiri più? E dimmi, falli dormire tu, tutti i miei ricordi piegati male, se io non ci riesco, tu almeno puoi restare. Immaginazione, spreco il mio tempo coi vinili da comprare, le mie pressioni unilaterali lo so ti fanno male. Meriteresti un po' di pace, un mondo nuovo, testa o croce. Con le emozioni faremo vincere solamente le migliori. Ma dimmi, li hai anche tu, quei momenti che piangi, che ridi, che respiri e non respiri più? Falli dormire tu, tutti i miei ricordi piegati male, se io non ci riesco, tu almeno puoi restare. Se mi dicessi parto, io ci proverei a fermare il treno, ma sarebbe lo stesso. Ma dimmi, li hai anche tu, quei momenti che sorridi, che vedi che il mondo in due ci dà di più? E dimmi, curameli tu, tutti i miei ricordi piegati male, se io non ci riesco, tu almeno puoi cantare. E dimmi, falli dormire tu, piegati male.